Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Tutti i giorni noi parliamo, gridiamo, sussurriamo, mormoriamo, urliamo, insomma, usiamo la voce fin da quando siamo piccoli, fino dai primi tentativi. È la voce che accompagna la nostra vita. La voce è una delle cose che ci contraddistingue maggiormente, non esistono due voci uguali. Però il più delle volte noi non facciamo caso a questo mezzo straordinario che ci permette di comunicare con chi abbiamo attorno, di esprimere i pensieri, le emozioni. Bene, oggi parliamo di un artista che invece con la voce ha fatto cose che nessuno è riuscito a fare, né prima né dopo. Il vero padrone della voce. A segnalarci questo artista è un nostro ascoltatore che abbiamo in linea, Mattia Corni. Buongiorno Mattia. Buongiorno Enrico. Allora, dici tu, presenta tu la persona di cui io sto per parlare. Niente, io ho chiesto appunto di farti raccontare questa storia principalmente perché purtroppo, confrontandomi con gente della mia età, io ho 27 anni, insomma, Demetrio non è conosciuto. Esatto. E questo è molto grave perché comunque lui è un vero artista, insomma, è un ricercatore, diciamo, ecco. Esatto, parliamo di Demetrio Stratos. Tu come hai fatto a conoscerlo? Perché a 27 anni, cioè, vuol dire che tu sei nato quando Demetrio Stratos non c'era già più. Praticamente io sono musicista, quindi mi sono avvicinato a questi tipi di musica anche grazie a amici e cugini più grandi di me che sono appassionati del genere. Appena l'ho ascoltato ho detto: qui sono di fronte a qualcosa di inconcepibile. Esatto. E quindi bisogna ascoltare e diffondere la voce. Bravo, e noi lo faremo. Grazie Mattia. Ciao. Demetrio Stratos, sentiamo subito un piccolo esempio di quello di cui parleremo oggi, la voce. Ecco, forse non tutti voi si sono resi conto subito che in questo pezzo chi canta, soprattutto all'inizio, sta emettendo due note diverse contemporaneamente. È una tecnica molto particolare, si chiama diplofonia, ve la spiegherò poi. Richiede capacità naturali, tecniche, mentali, capacità veramente complesse, le capacità che ha il protagonista della puntata di oggi, Demetrio Stratos, che inizia con una band, diciamo, beat degli anni 60, i Ribelli, e in seguito fonda i mitici Area, e gruppo forse più raffinato, più impegnato del rock progressivo italiano, direi del jazz. Stratos ha avuto una grande e intensa carriera solista, soprattutto all'estero. È stato al fianco di grandi personaggi della musica sperimentale, come quel John Cage che abbiamo già incrociato quando abbiamo parlato per esempio di John Cale. Eppure in Italia il lavoro di Stratos non è mai stato riconosciuto in tutta la sua importanza. Il tipo di lavoro che io ho fatto qua mi hanno sempre riso in faccia, nessuno ci credeva, perché così da noi purtroppo non esiste un'educazione musicale, e la musica tuttora, anche dalle organizzazioni politiche o dalle organizzazioni, non so, culturali, ancora è considerata una cosa un po' da divertimento, una cosa così. Fuori è considerata una cosa estremamente seria la musica. E qui Demetrio Stratos tocca un tasto dolente della musica in generale, cioè il fatto che in Italia la musica non sia presa con la serietà con cui viene presa in altri paesi. La verità è anche che lui è scomparso veramente presto, è morto a 34 anni, portato via da una malattia rara che non gli ha lasciato scampo, altrimenti forse anche in Italia la sua grande sperimentazione avrebbe potuto incidere di più nel nostro mondo culturale. Demetrio Stratos è la figura poliedrica per eccellenza. Non solo la sua voce era una sorta di veramente di crocevia di capacità tecniche, quelle di un uomo nato con delle corde vocali con dei superpoteri, perfino il CNR ha condotto degli studi su di lui. Anche la sua formazione era un concentrato di apporti culturali diversi, di luoghi, mondi differenti che hanno lasciato tracce di tutti i generi nella sua anima. È stato capace di accogliere, di trasformare ognuna delle influenze che lui ha avuto in una nuova sperimentazione. Intanto era uno molto serio, appassionato nella sua ricerca, è uno che ha cambiato veramente voce, ha cercato all'interno delle sue potenzialità, con anni di studi si è praticamente inventato una nuova disciplina in cui la voce è diventata uno strumento perfetto, ricchissimo. Il tipo di lavoro che faccio io non si basa assolutamente sulle capacità canore, cioè è uno studio per scoprire nuove tecniche, quindi che possono essere utilizzate da tutti. Cioè io ci ho lavorato per anni per scoprire queste tecniche o per coltivarle o per svilupparle, è possibile insegnarle. Beh, non so se tutti, proprio tutti, saprebbero fare quello che faceva Stratos con la sua voce, perché lui aveva veramente ricevuto un dono particolare dalla natura, oppure dai suoi genitori. Lui si chiamava Efstratios Demetrio, Demetrio Stratos, nasce da genitori greci a Alessandria d'Egitto nel 45. A Alessandria c'è una vasta colonia greca, anche perché la città era stata in realtà fondata dai greci. Si sente in pratica una grande influenza dei greci nelle foci del Nilo, un'influenza culturale. Per secoli i suoni arabi si sono mescolati a quelli delle musiche greche, con la fisarmonica tipica di tante loro melodie, che ha creato quasi un sottofondo costante al canto dei muezzin, magari con modo di il bordone, no? Cioè la nota ripetuta. Insomma, ce lo racconta anche la moglie di Demetrio, Daniela Ronconi, da un documentario che si chiamava La voce di Stratos, un documentario che vi consiglio di guardare. Sua sorella prendeva lezioni di piano, quindi veniva il maestro di piano in casa. Quando andava via il maestro, lui strimpellava. Ma la sorella però era molto più grande di lui. E allora l'hanno iscritta al conservatorio, ma ha cominciato con la fisarmonica. Il suono che lui aveva sempre sentito, penso alle feste, quelli greci, ma anche quelli arabi. Per lui un muezzin era normale sentirlo, no? Anche i suoni arabi per lui erano molto familiari, insomma. E intanto lui frequenta la British Boys School, dove impara a parlare inglese, e come vedremo più avanti anche la conoscenza dell'inglese sarà una delle tante doti che permetterà a Stratos di avere il suo primo ingaggio in un gruppo musicale. Insomma, un crogiolo di culture, di popoli, di suoni, che è fondamentale per la sua formazione, perché Alessandria è veramente un porto di mare in tutti i sensi. Nel 57 però i genitori di Demetrio considerano più sicuro mandare i figli a Cipro, perché lì la situazione è molto calda e rimane calda fino ai giorni nostri. Allora ci fu la crisi del canale di Suez. A Cipro c'erano anche le sorelle della mamma di Stratos, quindi l'avevano mandato lì, l'hanno mandato avanti, perché si capiva che le cose si mettevano male per gli stranieri. A Cipro ho frequentato anche lì la scuola per stranieri, quindi ho continuato con gli studi, ho fatto il liceo inglese praticamente. Lui era in un collegio cattolico a Cipro, quindi lui ha sempre avuto passaporto cipriota. E poi si va finalmente in Italia, a Milano. È il 1962, quindi Demetrio ha 17 anni, ha già finito il liceo, perché il liceo inglese finisce un anno prima, e lì c'è una bella atmosfera a Milano in quegli anni, tanta voglia di fare, di divertirsi, arriva il rock and roll, arriva Celentano, arrivano le band di studenti che nascono come funghi, e Stratos ne crea una con tanta voglia di suonare in giro. Lui non è il cantante qua, si limita a suonare le tastiere, ma ci sono casi in cui la predestinazione è più forte di tutto. Insomma, la voce di Demetrio Stratos troverà la sua strada. Il falco e il gabbiano. siamo a Milano, sono i primi anni 60, si sta imponendo la cultura beat, ci sono un sacco di ragazzi che fanno rock and roll, che vogliono andare oltre Nilla Pizzi e Claudio Villa, e tra questi ragazzi ce n'è uno che arriva da Cipro, si chiama Demetrio Stratos, suona la fisarmonica, suona il piano, parla bene l'inglese, intanto frequenta il Politecnico dove conosce tante persone, tra cui una ragazza che diventerà poi sua moglie, Daniela Ronconi, vuole suonare e all'inizio sta infatti soltanto suonando in locali mitici come il Santa Tecla, un luogo dove sono nati veramente quasi tutti i talenti di quel periodo milanese. Ma un giorno accade un imprevisto, il famoso imprevisto, l'evento che cambia la vita, ce lo racconta proprio sua moglie. Faceva il turnista in sala di incisione, no? Quindi lui aveva conosciuto molte persone che si occupavano di musica. Ha cominciato a cantare per caso quando il cantante del gruppo ha avuto un incidente, mi sembra, una sera. Si doveva arrivare con la macchina, ma era successo qualcosa, per cui alla fine gli altri gli hanno detto dai, canta tu. Allora lì ha cominciato a cantare. E il colpo d'ala è molto spesso le grandi carriere sono iniziate da circostanze di questo genere. Poi lui ci sa fare perché canta con molta grinta, conosce perfettamente l'inglese, ha anche quel accento inglese che in quegli anni crea un certo appeal, ricordiamo i Rocks, ricordiamo Mal. E insomma, in questo momento arriva l'incontro Gianni Dall'Aglio, che è il batterista di un gruppo molto amato in quel periodo, che sono i Ribelli, peraltro gruppo del clan di Celentano. Siamo alla fine del 66 e il luogo dell'incontro è proprio il Santa Tecla. A Milano in quel periodo era un pullulare di gruppi inglesi. Una sera ci propongono di andare ad ascoltare un gruppo in un locale di Milano che si chiamava il Santa Tecla. Già al di là del microfono io sentivo proprio in diretta sta bella voce, no? E io penso fosse inglese, poi cantava da Dio in inglese, senza neanche lasciarlo parlare, diciamo, senti, com'è che ti chiami? Lui fa, io mi chiamo Demetrio. Ascolta, noi siamo i Ribelli. Oh, siete i Ribelli? Oh, porca miseria, i Ribelli, che a me piacete moltissimo. A noi piaci tu invece. E ti offriamo di venire con noi, ma da domani, non fra un mese. Che belle cose da sentire. I Ribelli, l'abbiamo detto, sono già un gruppo piuttosto conosciuto, anche perché loro e i Fuggiaschi sono i gruppi che in qualche modo accompagnano le esibizioni di Adriano Celentano, che in quel momento con il clan sta creando un gruppo di musicisti attorno a lui. C'è anche Don Bachi, Ricky Gianco, eccetera. E loro hanno già ottenuto, i Ribelli, un buon successo con una cover di una canzone di Battisti per una lira. Però l'incontro con Stratos cambia la vita a lui, ma anche a loro e al gruppo di Dall'Aglio e del chitarrista che si chiama Giorgio Benacchio. Noi non sapevamo come trattarlo, perché era talmente bravo, non sapevamo cosa fare, che pezzi faremo. Da quando è arrivato Demetrio ci siamo internazionalizzati tantissimo, abbiamo creato un repertorio internazionale. Succede che usciamo dal clan e qui c'è la nuova versione Ribelli. Nel frattempo Ricky Gianco ci aveva già proposto qualche mese prima di far parte della nuova Ricordi. Quindi svincolati dal abbraccio molto stretto che Celentano riservava ai suoi accoliti in quegli anni, i Ribelli firmano il contratto con la Ricordi ed escono con il loro brano, quello che rimarrà più famoso di tutti, uno dei grandi inni di quegli anni, Pugni chiusi, scritto da Dell'Aglio insieme a Luciano Beretta e allo stesso Ricky Gianco. E Stratos rimane con i Ribelli qualche anno, fino al 70, quando l'esperienza si conclude e il beat sta lasciando posto al rock progressivo. E in più la ricerca di Stratos sta andando molto oltre le canzoni dei Ribelli, perché la voce sta diventando sempre di più uno strumento e diventerà uno strumento sovversivo. Man mano che passa il tempo lui scopre, approfondisce le sue qualità e questo scatena in lui anche una riflessione, che col tempo diventa sempre più politica nel senso anche più ampio del termine. Se una nuova vocalità può esistere, allora deve essere sperimentata da tutti, non solo dal singolo. Deve tentare di liberare dalla condizione di ascoltatore e di spettatore alla quale ci hanno abituati la cultura e la politica. Questo lavoro non deve essere considerato come un ascolto passivo, ma come un gioco nel quale la vita si assume dei rischi. Beh, tutto questo è anche frutto di quel periodo in cui qualsiasi cosa venisse fatta era politico, e quindi la scelta di Stratos di, come dire, allargare la base, coinvolgendo la base, è una scelta assolutamente in linea con quegli anni. E intanto nasce la figlia di Stratos, Anastasia, che lui segue non solo come padre, ma proprio per intuire i giochi involontari che un bambino fa con la voce quando sta sperimentando il primo approccio col suo corpo e quindi anche col suo parlare, con i fonemi che emette senza avere l'ansia dell'apprendimento della lingua. Insomma, lui la osserva e capisce quanto l'adattamento alle regole del linguaggio può compromettere la libera espressione vocale, mentre la voce può diventare, liberata dalle costrizioni della parola, un vero e proprio strumento. Insomma, il risultato è il classico colpo d'ala. Ce lo racconta ancora la moglie Daniela. Con la nascita di Anastasia c'è stato questo approfondire lo strumento voce proprio. Voleva fare un gruppo, come diceva lui, e si è messo e ha fatto gli aria. Il falco e il gabbiano. Stiamo parlando di Demetrio Stratos, una delle voci più interessanti dell'intero panorama internazionale, soprattutto in quei tempi, soprattutto per quanto riguarda la sperimentazione vocale. Di origine greca, abbiamo visto la partenza dall'Egitto, l'arrivo in Italia via Cipro, abbiamo seguito la prima parte della sua vita, quella passata a fare beat con una band di tutto rispetto come quella dei Ribelli di Gianni Dall'Aglio, quindi i primi successi, e poi l'esigenza di battere una strada più sperimentale, innovativa, un bisogno che gli nasce anche per avere osservato la figlia Anastasia, la libertà di un neonato che non è ancora costretto dai vincoli della parola, esprime i suoi fonemi seguendo il suo istinto. E la teoria di Stratos è che la perdita del suono originario, quello puro, a favore del linguaggio, cambia l'atteggiamento e quindi in questo caso cambia il modo di fare musica di lui, di Demetrio Stratos. Capisce che paradossalmente, per progredire nella sua ricerca, deve almeno apparentemente regredire, cioè tornare indietro, quando le parole non valgono più e non vale neanche la melodia classica. Osto su raston entis lutris, oste latin horis flium statidos agrias, oste lacontin nidion, oste lacontin nidion, oste latas colicon, oste lacontas su raston entis lutris briscon. Stratos vuole continuare il suo discorso rivoluzionario sulla musica, ha bisogno di un sostegno particolare, di un gruppo diverso da tutti gli altri, e decide di crearne uno suo. Conosce un batterista di area jazz che si chiama Giulio Capiozzo e fonda gli Area, che diventa il gruppo più innovativo del panorama musicale di quegli anni. E si parla di rock progressivo, ma in realtà parlerei più di jazz, di musica elettronica, di free jazz. Gli Area vogliono fare, a partire dal nome, con la loro nascita, un discorso non leggero, non canzonetto, un ampio progetto culturale, e ce lo racconta un altro dei componenti degli Area, il tastierista Patrizio Fariselli. Area non come spazio delimitato fermo, ma spazio in movimento, preso nel 72 da una frase di Ginsberg: allargate l'area della coscienza, trasformato in allargate l'area della consapevolezza. Nella prima formazione c'è anche un bassista di origine greco-francese, Patrick Zivas, quello che poi passerà alla PFM. E intanto Patrick Zivas ci racconta le prime prove del gruppo. All'epoca noi provavamo in una cascina, con tutte le caratteristiche delle cascine abbandonate, i vetri rotti, via dicendo, eccetera, eccetera. Però c'era la corrente, che era l'unica cosa che ci interessava. Dormivamo piuttosto poco, perché d'inverno faceva un freddo cane, la nebbia entrava dentro la cascina, non si vedeva da qua dove sei te, non vedevo io, dentro casa, non fuori, dentro. Suonavamo tutto il giorno, 15, 16, 17 ore di fila. Facciamo un piccolo break per mangiare una pizza in quattro perché non avevamo molti soldi. E tutte queste prove portano alla realizzazione di un primo album. Siamo nel 73, esce Arbel Macht Frei, che è la scritta che c'è sopra il cancello d'ingresso di Auschwitz. E l'album viene pubblicato da un'etichetta esordiente che è la Cramps, con questo direttore artistico che segnerà gran parte della musica alternativa italiana di quegli anni, che si chiama Gianni Sassi. Lui partecipa, Sassi, anche alla realizzazione dei pezzi che vengono composti con l'aiuto di tutti, come ci spiega anche il chitarrista, che è Paolo Tofani. E ci sedevamo a tavolino tutti, i componenti del gruppo più Sassi, e discutevamo il senso dei pezzi, cioè il testo, che cosa voleva dire, quindi come potevamo noi vivere quell'esperienza dal punto di vista del testo, del dialettico, a livello musicale. Ci separavamo e stavamo separati per un po' di tempo e ognuno lavorava da solo sui linguaggi che a lui gli sembravano più consoni per manifestare quel concetto. Sceglievamo le cose migliori e da lì nascevano i pezzi degli Ari. Beh, il centralismo democratico applicato anche alla composizione, poi arrivava l'esecuzione e i musicisti erano tutti di grandi capacità tecniche, abbiamo detto Fariselli, Tofani, Capiozzi, poi Aresta Volazzi, bassista anche lui di super area jazz, che sostituisce Patrick Zivas, che invece confluisce nella PFM con un successo globale, diciamo di stampo un po' diverso. Ma come si fa a introdurre la voce di Stratos in questa massa enorme di suoni prodotti da grandi componenti del gruppo? Ce lo spiega Patrizio Fariselli. Demetrio fece all'interno del gruppo un percorso molto particolare, perché la vocazione del gruppo era strumentale, fondamentalmente. La vocalità tendeva a essere messa un po' a margine, anche perché non facevamo canzoni. Non facevamo canzoni. Costruivamo delle piccole progressioni di eventi tematici, improvvisazioni collettive o singole o quant'altro, eventi che si susseguivano seguendo semplicemente la nostra ispirazione e il nostro interesse. All'interno di questo muoversi, la voce all'inizio aveva delle difficoltà a inserirsi in questo senso. Stratos si guadagnò il suo posto in modo molto autorevole. Primo perché lui era comunque un musicista, suonava anche lui le tastiere, e comunque ha sempre cercato di vedere la sua voce come uno strumento musicale. E gli Area sono proprio quello che serve a Stratos, sono la possibilità di fare cose diverse dal solito, e hanno dentro proprio la loro linea editoriale questo contenuto politico, direi esasperatissimo, e il rifiuto di fare musica facile e l'impegno per creare una nuova vocalità che lo liberi dalle imposizioni linguistiche si collocano veramente in una visione politica della vita. Siamo negli anni 70, nell'epoca dei grandi sconvolgimenti sociali, del movimento, insomma il primo album degli Area esce nel 73, siamo nel periodo delle stragi di Stato, della crisi energetica, del marasma che porterà poi alla nascita dei gruppi armati, siamo già in odore di Brigate Rosse, però sono anche anni di grande creatività, di voglia di trovare linguaggi, di scrollarsi di dosso le strutture di un'Italia probabilmente un po' provinciale culturalmente. Insomma, gli Area sono sicuramente il gruppo che meglio esprime l'energia creativa di quel periodo e di quel tipo. C'è un discorso di musica leggera da una parte, c'è un discorso di egemonia classica, capisci, dall'altra parte, quindi conservatori, la Scala, queste cose qui, miliardi che girano alla RAI, eccetera, e in mezzo chi c'è? Noi siamo di mezzo, non è che siamo una cosa d'elite. E credo che noi siamo, con altri gruppi o altra gente che fa sperimentazione dal nuovo jazz italiano, noi siamo la nuova musica italiana. E lottiamo perché non ci sono degli spazi, non ci sono delle garanzie. E lo spazio ideale è quello dei concerti del Parco Lambro. Chi è di Milano e ha presa poco la mia età si ricorda benissimo dell'evento dei concerti del Parco Lambro, era un po' la nostra Woodstock. Il gruppo si esibisce in quel clima strano e irripetibile tre volte, nel 74, nel 75 e nel 76, dove c'è un concerto nel quale accadono cose veramente veramente particolari, come Tofani che fa arrivare i fili elettrici del sintetizzatore fino al pubblico per ottenere nuove sonorità grazie alle vibrazioni create dalle persone. Io c'ero quel giorno, era una scena quantomeno surreale, con la gente con le braccia alzate che spostava cavi. E poi c'è Stratos, che è quello che cambia tutto davvero, perché i suoni che escono fuori dalla sua voce sono rivoluzionari. 15esimo il abbiamo secolo perso. Perso il memorio secolo abbiamo 15. A Demetrio non interessa che la voce risulti bella, perché il percorso va oltre. Il lavoro degli Are ormai non gli basta quasi più. Dopo 5 anni assieme, 5 album importanti, lui nel 79 lascia il gruppo, anche se nel frattempo aveva già pubblicato 2 album da solista: Metrodora, dal nome di un medico donna dell'antica Grecia, e Cantare la voce, nei quali aveva già riversato i risultati dei suoi studi. Bene, adesso vuole dedicarsi solo alle sue sperimentazioni e iniziano le collaborazioni col compositore americano John Cage, che lo ha scoperto per caso in America. C'era un tale in una delle stazioni radio. Mi disse allora che aveva un disco di un cantante italiano, Demetrio Stratos. Credo che fosse dei Mesostics. Parlavamo e mise sul disco. Rimasi sbalordito. La sua voce non è una voce in senso limitato, ma una voce che si estende al di là di ogni senso del limite. Fu un'esperienza meravigliosa. E lui già al Parco Lambro aveva presentato i Mesostics di John Cage. È una forma di poesia scritta in maniera visiva, tipo l'acrostico. Avete presente quello dove si mette una parola in verticale e per ogni lettera, so, Enrico, eccezionale, nato, cane, eccetera. Quindi una cosa del genere. Lui riesce a interpretarla in musica, ma non si ferma qui, perché studia psicologia, etnomusicologia, inizia a collaborare con il CNR, che lo sottopone a esami particolari delle sue corde vocali. Facciamo l'esame glottografico, così possiamo meglio renderci conto. Va bene. Dei meccanismi. Lo sente stretto? No. Andiamo in cabina. Ecco, come eravamo sul posto, le corde vocali sono immobili, non vibrano, mentre abbiamo un'emissione sonora chiarissima dalle labbra. Quindi l'ipotesi che abbiamo fatto, che fosse un fenomeno di tipo fischio, dovrebbe essere quella corretta. Si vede chiaramente, riesce addirittura a modulare in intensità l'emissione fischiata. Sentite, questi che studiano, è lui che emette questi suoni. Insomma, è chiaro dagli esami compiuti dai medici che lui è in grado di cantare non solo le diplofonie, cioè 2 suoni contemporaneamente, ma addirittura triplo e quadrifonie, e riesce a emettere 4 suoni contemporaneamente. Le sue capacità lo portano a viaggiare e va negli Stati Uniti, dove collabora non solo con Cage ma con altri artisti famosissimi come Jasper Johns, Andy Warhol, che alla fine entra nel nostro programma per credo la 6ª, 7ª volta, e in Italia pubblica un album, Le Mille Luna, con versi scritti dal poeta Nanni Balestrini. Poi va a Parigi per interpretare una pista di Antonin Artaud, lo cercano in Francia, in Olanda, in Italia tiene un corso al conservatorio, si esibisce nelle gallerie d'arte, nei musei, insomma porta la sua musica ovunque, fuori dalla convenzionalità, e il risultato è che tutti sono affascinati dal suo lavoro e dalla sua voce. Io mi offro da cavia per fornire tecniche, almeno nel mio mestiere. Io utilizzo uno strumento, il mio mestiere, fornisco tecniche e non assolutamente non mi chiedo se devo vendere 20.000 dischi o 100.000 dischi o devo prendere 3 milioni per sera e andare in giro a cantare da solo. Tanto le cose che faccio da solo sono cose molto particolari. Molto particolari che, se voi, si chiudono all'interno, sì, di persone molto specializzate. Insomma, ci sarebbe un grande avvenire di fronte a Demetrio, un futuro pieno di conquiste da fare, però nell'aprile del 79 gli viene diagnosticata una forma gravissima di leucemia, viene ricoverato al Policlinico di Milano, poi viene trasferito al Memorial Hospital di New York nella speranza di sottoporlo a un trapianto del midollo. Intanto in Italia gli amici di sempre decidono di preparare un concerto per raccogliere i fondi necessari a pagare le cure. Il concerto per Demetrio, il concerto è programmato per il 14 giugno e qui c'è una beffa incredibile alla quale ovviamente io ho assistito, perché in quegli anni si andava ai concerti. E quindi poco prima dell'inizio del concerto, il giorno 13, arriva la notizia della morte di Demetrio. Non ce l'ha fatta, è stato stroncato da un collasso cardiocircolatorio. Quindi il concerto, che doveva essere un concerto di raccolta fondi e tutto sommato di speranza, si trasforma a caldo in un tributo speciale. Finardi, Vecchioni, Guccini, De Gregori, i Caos Rock di Luigi Schiavone e tanti altri partecipano a un evento che assume delle connotazioni veramente di grandissimo pathos. Qualche anno più tardi John Cage crea un nuovo Mesostic dedicato proprio a Demetrio e fa più o meno così, ve lo leggo. Per farsi un'idea, la sua musica non avrebbe mai fermato l'estensione della sua voce, non avrebbe avuto limiti. Per lui il prossimo passo conoscitivo sarebbe stato il Tibet e da lì oltre, forse fuori dall'universo fonetico. Ci sono storie di persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala, hanno volato in alto, e hanno volato in alto in questo caso con la voce. Poi ci sono storie nelle quali sussiste l'ipotesi del che cosa avrebbe potuto ancora fare, ed è la classica cosa che si dice di Demetrio Stratos, che a 34 anni era agli inizi della sua carriera di grande sperimentatore. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al Falco il Gabbiano Chiosciola radio24.it, oppure venite a cercarmi nei miei, o a cercarci, insomma, nei social, Facebook, Twitter. Se volete, sapete dove trovarmi. Ciao, a lunedì.